Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera e ancora buon Natale a quanti ci ascoltano. Oggi Economia in pagina si occupa di un libro non tanto in clima natalizio, ma un po' vicino, un po' alle problematiche del bene comune, come dovrebbe essere il richiamo anche del Natale. Il bene comune in un'ottica dell'impresa, nell'ottica dell'economia. Il libro è Un'etica per manager ed è stato curato da Bruno Bonsignore e Francesco Baranini, che abbiamo con noi questa sera. Buonasera Bruno Bonsignore. Buonasera. E buonasera a Francesco Baranini. Buonasera. Bruno Bonsignore è cofondatore e presidente di Assoetica dal 2002, ha fondato l'Ateneo Multimediale, si è occupato di ecologia dei media e del rapporto tra apprendimento e formazione, mentre Francesco Baranini è consulente e formatore, insegna presso il corso di laurea in informatica umanistica dell'Università di Pisa. Ecco, questo libro raccoglie 10 lezioni magistrali di importanti personalità, da Zygmunt Bauman, Archie Carroll, Carlo Casalone, Serge Latouche, Giancarlo Livraghi, Carlo Pelanda, Salvatore Vega. Come sono nate queste lezioni magistrali? Bruno Bonsignore. Ma sono nate dalla decisione presa da me e Francesco nel 2002 di dedicarsi nel nostro tempo libero, diciamo, a un'attività di divulgazione dell'etica applicata al mondo degli affari. Questo ci ha portato a fare dei corsi, che sono dei corsi che durano normalmente 80 ore nell'arco di un anno, e durante queste giornate di lavoro invitiamo una notevole, diciamo, gamma di personaggi dal punto di vista della loro competenza, quindi sociologi, antropologi, filosofi naturalmente, ma anche dei personaggi che ci diano delle competenze tecniche. Ecco, dunque, quindi dei corsi proprio veri e propri a livello universitario, in cui sono presenti i responsabili di impresa a parlare di etica. Si parla molto di etica, vuol dire che ce n'è proprio bisogno. E qui vorrei chiedere a Francesco Baranini, che ricordo peraltro per lo stesso editore Guerini Associati ha pubblicato anche un libro alcuni mesi fa, che si chiama Contro il Management, criticando un po' il management attuale nei suoi obiettivi, nella sua logica. Il management attuale ha bisogno di etica, Baranini? Beh, direi come tutti abbiamo bisogno di etica, ma la domanda che possiamo porci è perché si parla tanto di etica. Credo che se ne parli perché non c'è. Siamo di fronte a una consapevolezza comune di una carenza di senso in quello che facciamo, e perciò siamo alla ricerca di qualche spiegazione. Ora, nella vita quotidiana ognuno di noi cerca di fare il possibile, credo, per comportarsi in modo etico e responsabile. E tutti vorremmo che lo facessero anche i manager che guidano le aziende nelle quali lavoriamo. Ecco, si può chiedersi allora perché non lo fanno, Baranini? Perché sono condizionati dalla loro educazione? Sono condizionati dal mercato? Sono condizionati dalla realtà aziendale, che è spesso competitiva e spesso ragiona più sul breve, brevissimo tempo che non sul lungo termine? Beh, io credo che sia proprio un problema di educazione. Credo che se i master che formano i manager considerano tra le loro discipline l'etica, ci sarà pure qualche spiegazione. E se l'etica poi diventa solo una materia di studio, non è più l'etica deve essere vissuta. Credo che ci siano degli spazi comunque per combattere questa situazione nella quale il manager si trova a lavorare, dove la finanza impone degli obiettivi che non sono etici, impone, come diceva lei giustamente, un breve termine che contraddice la possibilità di comportarsi creando veramente valore per tutti coloro che partecipano all'azienda. E noi con Assoetica cerchiamo di fare qualcosa in questo senso, e sia attraverso queste lezioni di questi importanti testimoni di un atteggiamento etico, e sia attraverso il libro che ho scritto anch'io, cerchiamo di portare alla luce come potrebbe essere un management che non esclude dal suo orizzonte un atteggiamento etico e responsabile. In questa prospettiva vorrei chiedere a Bruno Bonsignore se la crisi che abbiamo vissuto tutti, soprattutto nel 2009, una crisi che è stata, secondo le analisi più correnti e più appunto condivise, provocata proprio da una carenza di etica. Ecco, se questa crisi ha cambiato un po' l'atteggiamento e l'attenzione verso queste problematiche negli ultimi mesi. Bruno Bonsignore. L'attenzione di sicuro è cresciuta, perché il problema sta diventando sempre più percepibile, diciamo, quindi le aziende incominciano a fare attenzione al problema dell'etica negli affari e nel lavoro, non soltanto nell'ottica di uno strumento di marketing diciamo da ostentare o comunque da far valere nelle proprie strategie di vendita sostanzialmente, ma ci si incomincia a porre veramente un problema di rispettare dei valori anche e soprattutto direi nel mondo degli affari e del lavoro, per cui sì, però c'è anche tutta una mancanza di informazione corretta anche da parte dei media, bisogna dire, per cui spesso l'etica viene intesa come opere di carità o anche di responsabilità sociale, che sono certamente dei fattori positivi, ma che non propriamente corrispondono o non necessariamente corrispondono a degli comportamenti etici. Un'azienda brava che fa quella che diciamo social responsibility non necessariamente con questo può dirsi un'azienda eticamente corretta, oppure sì, però non è una certificazione che possa reggere e motivare e giustificare un atteggiamento se non è poi suffragato da dei comportamenti quotidiani. Ecco, in questa prospettiva vorrei chiedere a Varanini se può essere considerata l'etica una disciplina da insegnare, così come si insegna, che so, il management, il marketing, la finanza, la gestione aziendale. Può essere messa un po' tra gli scaffali come tante altre cose che fanno parte della logica aziendale, Francesco Varanini? Meglio che un'assenza totale di conoscenza o di su questi approcci. Meglio che questo è anche un insegnamento dell'etica anche in termini astratti e teorici e scolastici. Ecco, perciò io penso che sarebbe meglio che ci fosse un po' meno di marketing e un po' meno di finanza nell'insegnamento base di un manager e ci fosse qualcosa di più di etica. Detto questo, l'etica è un'ottica, diciamo noi di Assoetica, no? Utilizzando una frase del filosofo francese Levinas, perciò è un atteggiamento che è importante assumere, un atteggiamento che parte dalla persona e non potrà essere veramente insegnato in nessun corso da nessun docente. Però diciamo che un corso, un docente possono in qualche modo stimolare ognuno a portare alla luce i propri valori e il proprio atteggiamento personale rispetto alla costruzione del valore, e quindi portare alla luce il proprio atteggiamento etico. Ecco, magari valorizzando anche una tradizione italiana. Giancarlo Lunati nella sua prefazione ricorda per esempio la figura di Adriano Olivetti, che ha avuto una grande parte in anni ormai passati nel fondare una nuova immagine d'impresa. Sì, certo che esistono delle buone pratiche, dei buoni modelli, o meglio che modelli, direi dei buoni esempi, che sicuramente possiamo andare a riguardare per scoprire come potremmo essere noi adesso orientati a un modo di costruttivo di fare impresa, come lo è stato nel suo tempo Olivetti. Anche questo bisogno di ritornare a questi esempi è frutto della carenza che abbiamo in questo momento. Gli auguri di buon Natale in 10 secondi al manager di oggi. Beh, l'augurio è di essere in linea con quello che noi speriamo di diffondere sempre di più, e cioè un atteggiamento etico sul lavoro, ma direi al manager gli auguro anche di essere meno solo in questa situazione dove deve fare profitto subito tanto e a tutti i costi e non avere quasi addirittura più neanche il tempo di concentrarsi su come farlo e sul fatto di essere in linea con i valori e i buoni propositi. Quindi buon Natale, buoni propositi per il 2011 e meno solitudine per lui. Grazie, grazie a Bruno Bonsignore e Francesco Varanini. Con loro abbiamo presentato il libro che hanno curato, Un'etica per manager, 10 lezioni magistrali, edito da Guerini Associati. Sono più di 200 pagine per €22,50. Raccolgono appunto le 10 lezioni fatte nel corso di Assoetica. Buon Natale a Varanini e a Bonsignore. Buon Natale a quanti ci hanno ascoltato.